Dunque, Chamonix, oggi cos'è? Il Il 7. 7 agosto, siamo con Carolina e con Giacomo. Abbiamo fatto una camminata fino alla Plaine des Aguilles, siamo tornati giù, adesso ci stiamo occupando del testo di Galimberti, Il tramonto dell'Occidente. Comincio dall'inizio, un'introduzione. Questo testo è molto importante per noi perché è una sintesi grandiosa del percorso della filosofia occidentale fino alla situazione attuale in cui ci troviamo sicuramente un impasse. Cito Panikkar, dice che i popoli, poi i governi, danzano sulla musica che sono le idee di fondo, cioè i presupposti. Le parole di Panikkar non sono esattamente queste, ma l'idea di fondo è che ci sono dei presupposti, delle idee portanti, e i governi, i popoli, poi alla fine danzano su quale musica? Su quella di queste idee portanti. Allora, ci sono alcune idee, alcuni presupposti importanti che reggono la cultura occidentale che fanno sì che oggi ci troviamo nella condizione di essere i distruttori e il cancro del pianeta. Insomma, qualche ragione ci sarà, ecco. Allora, il testo di Tramonto dell'Occidente inizia così: sta forse giungendo a compimento il senso espresso da più di 2000 anni dalla nostra cultura, che, come dice il nome, è occidentale, cioè serale, avviato un tramonto a una fine. L'evento occidentale è sempre stato presso la sua fine, attenzione, non solo adesso, presso la sua fine, ma solo ora, con Nietzsche e poi Heidegger e Jaspers, comincia, scusate, a prenderne coscienza. Domanda: ma che cosa davvero finisce proprio oggi, quando sembra che poi tutto il mondo segua l'Occidente, fino ad annullare la specificità che finora ha reso riconoscibile l'Occidente, soprattutto la sua distanza dall'Oriente? Ecco, finisce la fiducia che l'Occidente ha nella sua via, perché dopo averla percorsa ne ha avvertito l'essenza nichilistica che l'animava sin dall'inizio. Quindi c'era un virus dentro questa cultura. Il virus è il nichilismo. Cos'è il nichilismo? Ecco la definizione. Nichilismo significa che l'essere è niente, o è pensato e trattato come se fosse nulla. E qui bisogna capirsi cosa si intende per essere. Ovviamente bisogna riconoscere nella cultura occidentale l'essere è ciò che è permanente, ciò che è essenziale, è l'essenza delle cose e solo le cose che permangono. Ecco. Eraclito diceva: l'essere cos'è? Quella è l'unica cosa che non cambia mai, è il cambiamento, perché il divenire c'è sempre, quindi pantarei, l'essere è il cambiamento. Per altri, per Talete, cos'era l'acqua, e per altri erano altre cose, i presocratici, no? Quindi l'essere in Occidente si intende quel qualcosa che sta alla base di tutto e che c'è sempre. Allora, lo stesso disinteresse che oggi l'uomo occidentale rivela nei confronti del problema del senso dell'essere, quindi rispetto per esempio ai valori, oggi si sa che c'è il relativismo dei valori, non si può discutere, della vita, del mondo, della storia, di Dio, dimostra che continua a non misurare, ma a essere misurato dal nichilismo, ossia dalla persuasione che l'ente, che l'essere è nulla e invece è qualcosa soltanto l'ente, che vale, che vive, che è utile, che diviene, che è la causa di altri enti o di tutti gli altri enti. Ebbene, scrive Heidegger, nella dimenticanza dell'essere, promuovere solo l'ente, questo è il nichilismo. Allora, qui questi termini vanno un po' spiegati. Allora, l'essere, vi ho detto, è ciò che permane, che c'è, che rimane, è l'essenza di tutto. E l'ente cos'è? L'ente sono i fenomeni, cioè quello che si manifesta. Allora vi propongo questo schema. L'essere sta qui sotto, sopra l'essere cosa c'è? Ciò che appare, l'apparire, i fenomeni. Gli enti sono i fenomeni, una casa, una seggiola, un uomo, un gatto, sono degli enti. L'essere è ciò che permane. Per Platone cos'era l'essere? Erano le idee. Le idee rimangono, sono nel peruranio, la realtà fisica non è che una rappresentazione piuttosto imprecisa dell'idea che però rimane eterna, è sempre là. Ecco. È con Platone che inizia il dualismo. Platone cosa fa? Platone dice: il nostro corpo ci inganna. Se vogliamo sentire dire qual è la temperatura in questa stanza, chiede a te, ognuno dice caldo, freddo, mezzo. Allora, per conoscere la verità non si può tener conto del corpo. Allora, bisogna rifarsi a qualcos'altro. Questo qualcos'altro è l'anima. L'anima è quella che procede per concetti e per numeri. Quindi, che è quella di accedere al mondo dell'iperuranio delle idee. Questo è per Platone l'anima. Quindi, è un'anima conoscitiva. Lo scopo per cui Platone fa questa distinzione è per conoscere la realtà, quindi un atto di conoscenza. Da notare che Sant'Agostino, più o meno 800 anni dopo, utilizza la stessa distinzione platonica, anima e corpo, e però la sposta e dice l'anima, certo il corpo ci inganna, c'è dubbio, ma l'anima serve a fare che cosa? A conoscere la verità. Quale verità? Quella di Dio. Quindi la volontà di Dio. Quindi l'anima, da strumento di conoscenza, diventa con Sant'Agostino strumento di salvezza. E il corpo da impreciso strumento di conoscenza diventa invece la prigione dell'anima, cioè quella cosa, fatto di appetiti, di concupiscenza, che fa sì che l'anima sia in pericolo, cioè che possa veramente non raggiungere i propri scopi perché è una prigione. Ecco, quindi il corpo è oggetto di disprezzo. 1200 anni più tardi, da questa dicotomia, cioè di questo pensiero dualista, viene ancora perfezionato da Cartesio con la nascita della scienza. Cartesio dice: ciò di cui abbiamo bisogno sono idee chiare e distinte, more geometrico, o in altri termini, come procede la fisica. La fisica procede per quantità, misure, numeri, è questo. E quindi, che cosa succede? Con Cartesio, la distinzione corpo-mente, corpo-anima è ancora più forte. Perché il corpo deve essere oggetto della ricerca e della ricerca attraverso idee chiare e distinte. Quindi quello che conta sono le rappresentazioni fatte con quantità, numeri, pesi, come nella fisica. Ed è interessante come Cartesio, che insegnava alla regina di Svezia alle 4 del mattino, e proprio in quel periodo lui si prese alla fine si ammalò di polmonite, vivendo in quel modo, Cartesio. E una volta la regina di Svezia disse: ma sente, però io continuo ad avere sensazione, ad avvertire che questo mio corpo è qualcosa che ha una sua vita propria. Cioè, quindi, e Cartesio disse: beh, vedi, nonostante il suo rango, lei continua a ragionare come uno del popolo. Quindi ricordiamo che da Cartesio è derivata una delle più brutte, odiose pratiche, tra l'altro quella di torturare gli animaletti domestici, perché di quelli non hanno sensazione, cioè quello che fanno gli animali sono dei meccanismi, sono come degli orologi. Ecco, perché questa era la visione cartesiana del corpo. Ok, queste cose Galimberti le dice proprio nel video che potete trovare su YouTube, Il corpo. Che è veramente raccomandabile che andate a vedere. Allora, ritorniamo al tramonto dell'Occidente. Allora, abbiamo detto che abbiamo fatto questa distinzione tra quello che appare, e quindi sono gli enti, e quello che è l'essere. Ok, quello che è l'essere, poi va avanti Galimberti, l'essere che cos'è? È qualcosa di nascosto che non compare subito ai nostri sensi. E in greco si dice nascosto, si dice lete. In greco verità si dice aletheia. Quindi verità vuol dire svelamento di ciò che è nascosto. Quindi l'essere non è che si manifesta così, bisogna avere un modo per svelare ciò che è nascosto. Ok? Quindi la verità è svelamento. Col nichilismo la verità viene dimenticata, non esiste, non esiste il valore. Che valori ci possono essere? Si parla oggi di relativismo radicale. E tu hai dei tuoi valori, sono scelte soggettive, io ho i miei, non è che possiamo tanto. Anzi, le discussioni sui valori sono da considerarsi a volte stupide, perché non si può discutere di queste cose qui. Ecco, sono preferenze i valori. Cosa vuol dire che i valori sono preferenze? Che non ci sono dei modi per poter valutare i valori buoni o cattivi, veri o falsi. Ecco, bene. Allora riprendo questa distinzione. Da una parte gli enti e dall'altra l'essere. Gli enti hanno a che fare con ciò che si vede, è in superficie, appare, ma è anche quello che diviene, perché gli enti si modificano. E sono quelli che causano una cosa causa l'altra. Il padre genera il figlio, un temporale genera la pioggia genera la crescita delle piante. Ecco. Quello che rimane sullo sfondo rimane l'essere, cioè l'essere che invece rimane costante e permanente. Benissimo. Adesso usciamo un attimo dalla filosofia occidentale che è dentro questa visione qui e mettiamoci concetti invece di tipo orientale e vediamo di capire che cosa è successo quindi in Occidente. Anziché di parlare di essere in questo modo che può essere complicato, vediamo in modo più semplice. Prendiamo il simbolo dell'Ubuntu. Bene, l'essere, dal nostro punto di vista, cos'è? È l'Ubuntu in cui il bulbo è immesso in un fiume, nel fiume della vita. Quindi cosa vuol dire? Che la natura della realtà ha almeno due componenti. L'interessere è l'impermanenza. L'interessere, cioè tutte le cose sono tra loro collegate, è l'impermanenza, nulla rimane costante. Che tutto continua a fluire. Quindi il concetto di vacuità del buddismo. Non esiste un io, un'identità stabile. Quindi quella che era considerata essenza da Platone per il buddismo è semplicemente una stupidaggine. Non esiste l'io o l'essenza dell'io, non esiste l'essenza del cavallo, esistono dei fenomeni che si manifestano perché l'essere è un fluire. Quando ci sono le sufficienti cause, questi esseri manifestano, altrimenti non si manifestano. Allora, dice ancora Galimberti, vedete un'altra parte, dunque, la dimenticanza dell'essere ha determinato la dominazione dell'ente, cioè noi praticamente non ci siamo più occupati di tutto l'insieme, ma ci siamo occupati delle singole parti. L'ente è grazie all'essere, ma dove l'essere è dimenticato, si rende necessaria la ricerca di un ente superiore, in grado di garantire la dominazione dell'ente sul nulla. Nasce il superente è Dio. Dio è la causa di tutto. E dice nasce per bisogni di sicurezza dell'uomo. Bene, allora utilizziamo altri due simboli, guardate. Questo di queste onde, no? L'oceano, immaginate. Allora, nel momento che si dimentica dell'essere, e l'Occidente fa questo, significa che noi, come esseri umani, siamo come dei vascelli gettati su un oceano che si devono salvare dalle onde. Quindi abbiamo bisogno di sicurezza, abbiamo bisogno di cercare la sicurezza da qualche parte. La visione orientale non è una barchetta che sta sui flutti, ma è una goccia che sta dentro il mare. E una goccia dentro il mare è assolutamente al sicuro. Quindi io sono al sicuro nella misura in cui non perdo la coscienza ontica, la coscienza dell'essere, cioè che io sono parte di un processo grandissimo che ha radici lontanissime, misteriose. Io sono parte di questo. Se io sono parte di questo, io non mi considero più un essere separato, non cado più nell'identificazione, nell'ego, ma considero l'io uno strumento, come sono le braccia, come sono le gambe. Io mi considero parte di un flusso. In quel momento lì, quando la visione, che la mia coscienza, quando ho questa consapevolezza, chiamiamola consapevolezza ubuntica, per usare un termine nuovo, tanto bene, io non ho paura. Perché non finisco la mia. È chiaro che il mio corpo un giorno finisce, ma finisce in una pianta, finisce in un animale. E se la mia coscienza non mi identifico in me stesso separato dal resto, va benissimo che io muoio, ma va bene, che male c'è? Divento qualche altra cosa. Ecco, quindi la paura della morte, la paura della malattia viene meno nel momento in cui la mia coscienza si amplia da coscienza individualistica a coscienza da io a diventare un noi, e un noi allargato a tutto ciò che c'è. Quindi di lì nasce la visione buddista che dice che tutti gli esseri possono essere felici, perché io sono tutti gli esseri, cioè voglio dire, e questo è l'augurio migliore che posso fare a me. Ora, questa comprensione, messa in questi termini, è spiegabile ai bambini, ed è una sintesi che deriva dal mettere insieme le visioni occidentali che si era intrappolata nell'oblio dell'essere. Inteso come che cosa? Come oblio di che cosa? Della nostra vera natura. Nella presente che i filosofi si sono dimenticati del corpo a partire da Platone e il corpo l'hanno considerato un ostacolo. Non è andata così in Occidente, ma in Oriente. Il corpo in Oriente è uno strumento di conoscenza, attraverso il respiro, attraverso le pratiche yoga, attraverso il corpo mi diventa uno strumento della mia consapevolezza. Nel momento che considero lo strumento, il corpo, un ostacolo, è l'unica cosa a cui posso riferirmi il pensiero, ho creato un pensiero astratto che di per sé è già malato. Lì la malattia. D'altra parte, c'è Galimberti che dice, e qui sarebbe da capire, da discutere con lui, perché non so se interpreto il suo pensiero, ovviamente non lo conosco a sufficienza, quando dice: noi ci occupiamo del corpo soltanto quando il corpo si ammala. Prima, quando stiamo bene, noi non ce ne rendiamo conto del corpo. E non rendersi conto del corpo per Galimberti è salute. Ma non ce ne, in Oriente non è mica così, eh. In Oriente io sto attento al mio respiro, sto attento a come cammino, sto attento a come mi muovo, sto attento al mio corpo. Perché il corpo sono io e è uno strumento per me. Quindi non separo più la mente dal corpo. In Occidente, invece, il pensatore separa il suo pensiero dal corpo, qui della base. E questo, guardate, che ha a che fare col movimento maschile e femminile. Le donne, bene o male, in qualche modo, sono più in rapporto col corpo, perché se non altro genera bambini, con i bambini non si possono dimenticare, non è mica prodotto con la mente un bambino. Quindi la donna è sempre due, è sempre lei e il bambino che c'è o che può venire. L'uomo è uno e quindi ha più facilità a cadere nell'astrazione. La filosofia è praticamente tutta maschile, la filosofia occidentale. E il maschile, come sappiamo, è tendenzialmente ricerca del potere, ricerca della gerarchia, ricerca del pensiero astratto, bisogno appunto di concettualizzare, mentre la donna mantiene sempre un piede nella realtà concreta della fisicità. D'altra parte, noi troviamo dei filosofi che oggi dovrebbero essere amanti della conoscenza. Galimberti stesso dice che fuma 40 sigarette al giorno. Ora, fumare 40 sigarette al giorno qualcosa vorrà ben dire. Vuol dire che se il corpo non gli dà segnali è ok così, quindi sta bene. Ma non è così. Allora, quindi, la visione occidentale è una visione tremendamente miope su certe cose. È come una visione guidata dal solo emisfero sinistro analitico, mettiamola così, che ha bisogno, visto che abbiamo anche l'emisfero destro, di essere non sostituita dalla visione dell'emisfero destro, ma integrata. Soltanto dove c'è integrazione armonica tra l'emisfero destro e l'emisfero sinistro c'è una persona equilibrata. Questo ce lo dice la neurofisiologia ormai, ce lo dicono i neurologi. Gli studi sono chiari su questo. Ecco, quindi direi che questa sintesi di Galimberti può essere messa dentro il discorso di Aleph e chiarire come mai noi ci siamo trovati in questa situazione, che possiamo chiarire anche sempre meglio, ovviamente adesso è appena un anno, e come ne possiamo uscire grazie a che cosa? Allargamento della visione, che non può venire dagli stessi presupposti da cui siamo partiti noi. Come dice Einstein, un problema, l'Occidente è diventato il problema del mondo, non può essere risolto con lo stesso tipo di pensiero che l'ha generato. Quindi dobbiamo andare a cercare quali sono i fondamenti, veramente i fondamenti del pensiero occidentale, e Galimberti su questo ci aiuta, e poi vederli da un altro punto di vista, che non può essere il nostro. Quindi è molto utile andarli a vedere, per esempio, dal punto di vista del pensiero orientale o del pensiero degli indigeni americani, che è completamente differente. Pachamama. La terra, lo spirito della terra, e non so, ricordatevi il capo indiano Sitla, quando fa il discorso al Presidente degli Stati Uniti, lì c'è la sintesi dell'ecologia moderna 150 anni prima. Ecco, quindi vuol dire che noi consideravamo un primitivo era molto più avanti di ancora di come siamo oggi 150 anni dopo. Ecco, quindi la nostra è una cultura egemone, una cultura basata proprio ha sviluppato la tecnica, quindi ha sviluppato le armi, quindi ha sviluppato la forza e dobbiamo avere il coraggio di dire che noi ci siamo imposti al mondo non per la bontà delle nostre idee, ma per la forza fisica delle nostre armi. Questo dobbiamo dire. Quando Colombo è andato sbarcato in America, ha incontrato le popolazioni, dal punto di vista etico della giustizia sociale, erano inconfrontabili con la società occidentale di allora, assolutamente inconfrontabili. Ecco. Però noi trattiamo ancora la conquista di Colombo dall'America come un evento da salutare con entusiasmo, mentre è stata l'inizio di come la civiltà occidentale ha massacrato culture, alcune delle quali erano molto più avanti rispetto alla nostra, da un punto di vista etico-morale, mentre noi credevamo di poter importare, oltre ovviamente i nostri affari, anche la nostra etica ritenendoci superiori. Quindi il vizio dell'Occidente, il tramonto dell'Occidente, nasce da questo fenomeno narcisistico evidentissimo dell'uomo al centro del mondo, questo semmai. Quindi possiamo anche dimenticarci tutti i discorsi complicati sull'essere, su queste cose qui, andiamo al nocciolo, che noi siamo i padroni della Terra, Bacone lo diceva con molta chiarezza, la scienza serve, deve servire a strappare alla natura i suoi segreti in modo da poterla sfruttare e dominare. Mentre noi sappiamo che questo altre popolazioni non l'hanno fatto, non perché erano stupide, ma perché erano più intelligenti di noi e capivano che noi siamo parte della natura e che se noi dominiamo la natura siamo degli idioti, perché la natura non è dominabile, è semplicemente stupida come cosa. E i guai che oggi abbiamo sul tappeto e non sappiamo risolverli dipendono da questa struttura. E credo di più a quello che vi sto dicendo adesso rispetto a questa analisi che è sicuramente sofisticata e di altissimo livello, ma fa ancora capire come bisogna rifarsi alle foglie nelle mani del Buddha. Ci sono gli insegnamenti e sono pochi che se hai in mano quelli capisci il mondo, altrimenti vai dietro alla proliferazione dei pensieri e della mente e non ne esci più. Perché se pensi che per poter capire il mondo di oggi ti devi studiare tutti i filosofi occidentali, ti puoi sparare.